Il punto di Stefano Folli. Bisogna riconoscerlo, Matteo Renzi ha spiazzato tutti, a cominciare dalla sua non amica Camusso. Sommersi sotto una tale mole di dati e di numeri snocciolati con stile da televendita, adesso gli analisti sono al lavoro per capire dov'è il trucco, se c'è. E il primo dei trucchi a cui si pensa sono le coperture per finanziare queste promesse. Sono davvero state trovate, come garantisce il Premier, oppure è solo un gioco di prestigio elettorale pensando ai voti delle prossime europee? Poi si guarda all'Europa per capire se è d'accordo, ovvero se obietta. Ma in definitiva si considera che Renzi non può essere così spregiudicato, non può aver sottoscritto un nuovo contratto con gli italiani, sia pure senza la scrivania di Bruno Vespa, solo per raccontare frottole che sarebbero presto scoperte. Qualcosa di innovativo nel suo progetto c'è, qualcosa che merita attenzione. E non solo l'aumento delle rendite finanziarie, quello davvero sicuro. Il Premier ha esposto un piano di sinistra, con sostegno ai redditi deboli e alla casa, ma anche in grado di piacere alle imprese, con l'IRAP e il mercato del lavoro. Allora continuiamo a studiare le cifre per capire se sono realistiche. La svolta però c'è stata.